nominato il concetto di dark ambient, e proprio con un artista che si rifà a tale tradizione andiamo ad iniziare. Trattasi di Netherworld di Alessandro Tedeschi, musicista qui di Roma, è più noto anche come fondatore della Glacial Movements, una interessantissima etichetta che ha prodotto tanti artisti italiani ed esteri. L'ultimo album per Netherworld si chiama Algida Bellezza, con una bellissima volpe artica in copertina, un album che si può trovare anche sul profilo Bandcamp dell'etichetta stessa. Oggi ci ascoltiamo il secondo brano dal nome Somnosus Microcephalus. chiama Algi da Bellezza, questo ultimo lavoro per quanto riguarda questo artista romano, Netherworld, Alessandro Tedeschi. Questi impenetrabili vapori ambient. Secondo passaggio dunque per lui, questo è Somniosus Microcephalus, un album dedicato al fragile equilibrio dell'ecosistema artico. E le cinque tracce, ognuna delle cinque tracce allude alle forme di vita che vanno a popolare quel bellissimo posto. E in questo caso è dedicato allo squalo della Groenlandia. La foto è di Carsten Egenvang, la splendida foto della volpe artica della copertina di questo lavoro, come ho già detto, dedicato peraltro anche alla propria figlia Ginevra. Continuiamo a salutare un po' di persone connesse. Abbiamo Like Awake, che sicuramente avrà gradito il passaggio di Netherworld. Antonio Zoviet, fedelissimo, un grosso abbraccio a lui. Altro artista omicidio di area più industrial noise. Nicola Locci, Stigmate e Hexagonal. Salutiamo anche Gianluca Becuzzi, valente artista da molti anni che calca le scene, ci siamo goduti il suo Voices le scorse settimane e presto manderemo anche la versione remixata e arricchita di contributi percussivi e tribali, un altro album che consiglio, peraltro scaricabile free download dal suo profilo Bandcamp. Tutta l'etichetta effettivamente predilige questi lenti movimenti così dilatati, il cosiddetto effettivamente soundscape glaciale, il nome dell'etichetta direi che è un manifesto vero e proprio. Rimaniamo nel senso di in Nord Europa, anche se gli artisti in parte sono italiani. Dico rimaniamo un po' in Nord Europa per te, perché Emanuele Frau e Nicolas Pucciarelli vivono ormai in Finlandia da un po' e insieme a Alexei Tiernavski hanno fondato questi Mortar Devotion. L'esordio è Operazione Piovra del Lead Chronicles, un album di ispirazione cinematografica che menziona appunto l'Operazione Piovra e i vari rapporti che ci sono stati tra mafia e politica. In qualche modo si cerca di descrivere in maniera sonica quegli eventi. Qui ci spostiamo sul versante più prettamente IDM. E oggi ci ascoltiamo Part Number 4. traccia particolarmente ipnotica, questa di Mortal Devotions. Manuele Frao, Nicolas Pucciarelli, li salutiamo. Come vado a salutare Riccardo Martucci di Diaspora Psichica a Taranto, Wurnus Aylin e Enkil, Franco Berletta dal Piemonte, entrambi. Più vicino invece Laura Spirit Crusher in quel di Frosinone. Insomma, questo Operazione Piovra del Lead Chronicles, un album a suo modo cinematico e per certi aspetti anche morriconiano, al di là poi della struttura elettronica. Un album che esce per la 8 Tower Records, etichetta naturalmente di Raffaele Pezzella. Un Raffaele Pezzella impegnatissimo nelle sue tre etichette. Lo salutiamo, anche se sappiamo che di questi tempi è difficile, proprio per motivi di lavoro, ascoltarci e seguirci qui a Radio Onda Rossa. È l'ora del doveroso omaggio a Florian Schneider. Sapete che proprio una settimana fa abbiamo saputo della morte di questo grandissimo musicista, fondatore dei Kraftwerk insieme a Ralf Hütter. E già lunedì scorso in Disordere li abbiamo omaggiati con The Man Machine. Invece qui sono andato, ho scelto di andare ancora più a ritroso nel tempo per andare a ritirare fuori i Kraftwerk, per quanto mi riguarda meno conosciuti, magari forse un po' ingenui, ma con dei momenti assolutamente irresistibili e geniali. Infatti sono andato a riprendere il primo lavoro, che è del 1970 addirittura. Era composto di quattro tracce. E ricordiamo i Kraftwerk che prima di questo album ne fecero un altro, ma sotto un altro nome, Organization. Poi decisero di prendere il nome più celebre che li ha portati in giro per tanti tanti anni, ormai sono 50, e di quella squadra è rimasto soltanto il buon Ralf Hütter. Torniamo a Kraftwerk numero 1 e ci ascoltiamo la seconda traccia dal nome Stratovarius. Thank you. la pura genialità di Kraftwerk, da questo Kraftwerk numero 1 del 1970, era Stratovarius, 12 minuti di follia, 1970, e sentite cosa facevano. Alfieri del cosiddetto krautrock, insieme a vari personaggi di altissimo lignaggio come Amon Dull, Tangerine Dream, Noi, Faust. Il krautrock, il rock cosmico, chiamatelo come volete, ha dato alle stampe e ai natali tanti artisti geniali proprio in quegli anni, che hanno poi influenzato altri personaggi del calibro di Einstürzen, Neubauten, Nars Whitwound, eccetera, eccetera. Qui punto erano Florian Schneider, Esleben, nome completo, Ralf Hütter, la batteria di Andreas Hoffmann e Klaus Dinger. Il resto fondamentalmente lo suonavano Ralf Hütter e Florian Schneider, flauto, violino, percussioni, organo, sintetizzatori. E già qui si poteva intuire poi il futuro che aspettava e che avrebbe poi confermato negli anni l'epopea Kraftwerk. Credo di fare cosa gradita. La prossima settimana ci ascolteremo questa megahertz nella sua interezza e noi andiamo avanti. E torniamo dalle parti di Raffaele Pezzella, Nespresso Sounds, e lo facciamo con la sua succosissima e suntuosa compilation dedicata all'Indonesia. Titolo lungo e preciso: Indonesian Music Survey, Anthology of Contemporary Music from Indonesia. Al contrario dei Kraftwerk celeberrimi, qui ci sono invece artisti ai più sconosciuti, me compreso. Cominciamo con Rulli Shabaras Gaung Jagat Ensemble, sorta di jazz rumorista noise, un po' alla Naked City per certi aspetti. Il pezzo è Saturday Number 3, e poi sempre le onde sperimentali di Steel Lucifer con Pain. due altissimi momenti di questa compilation dedicata alle realtà ultrasotterranee dell'Indonesia, e sapere che questi suoni vengono da lì mi fanno letteralmente rimanere a bocca aperta, a me come a molti ritengo. Il jazz stravolto di Riley Shabaras, Gaung Jacquet Ensemble, effettivamente con qualche rimando ai Naked City di John Zorn, e il tormentato noise di Steel Lucifer con questa Pain. Mi sento di dire una dei migliori compendi ideati da Raffaele Pezzella con e attraverso la sua NS Play Sounds Group. E a proposito di calibri forti, vado a salutare Massimo Olla dalla Sardegna, Noisedelic, Hidden Reverts e tante tante altre cose. Lo salutiamo, al pari di Eloquence Recycle di H501L. E mentre qui si spostano i mobili, a quanto sembra, da questa traccia di Patrick Artonot, che ci andremo ad ascoltare la prossima settimana, andiamo avanti e torniamo in Italia con i Mata, progetto marchigiano che sicuramente hanno avuto tra le loro influenze di Eichthurzen, Neubauten, tutta quella scuola di pensiero di primi anni 80 per quanto riguarda l'industrial più tribale e da ferro vecchio e da canglore industriale, al pari poi delle evoluzione rhythmic noise, per esempio, dell'Anzen, della Hans, eccetera, eccetera. Archipelagos, il loro ultimo lavoro per i Mata, e ci ascoltiamo queste due tracce, la quinta e la sesta, e Multitude e The Black.